later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la polvere si adagia ogni dove, Kappa e Drago parlano di messe. Parigi val bene una messa, dicono. Già, Parigi val bene una messa. Ma non val bene una massa di parigini. Una massa. Sì, Drago, il problema di Parigi sono i parigini, sono i francesi, vogliamo parlarne? Vabbè, parliamone, se proprio vuoi. Ne vous inquiétez pas. Cosa? Ne mi chiete pas, cos'è? No, ne vous inquiétez pas. Ma cosa vuol dire? Cosa dici? Ne vous inquiétez pas? Stai calmo. Ma cosa stai calmo? Stai calmo tu. Vedi che ti nervosisci. Per forza mi dici di star calmo, non c'è niente di peggio. Ne vous inquiétez pas? Ne vous inquiétez pas? E questo è il problema con i francesi, Drago. Tu sei seduto al bistrò, no? E sei seduto al tuo tavolino e praticamente sei seduto con tutto il bistrò contemporaneamente, perché tutti i tavolini sono strettissimi e quindi non hai il tuo tavolino. È una massa in forma di tavolino. Vabbè, tu sei seduto lì, e vedi il cameriere che ingrugnito evita apposta il tuo sguardo. Sai perché? Perché lui ha già, perché prima di darti retta lui ha già 12 ordinazioni in arretrato, ecco, e quindi non ti dà retta e quindi tu ti sbracci, lo sai che lui ti ha visto ma fa finta di niente, e allora bravi, passi al richiamo verbale, gli dici pardon e lui niente, ancora pardon e ancora niente, e alla fine ti guarda e ti dice ne vous inquiétez pas. Hai capito? Fantastico. È come se ti dicesse stai calmo. Stai calmo. Ma non ti può dire stai calmo. Anzi, è come se dicesse state calmo, perché ti dà del voi. Però non va bene. Ma cosa, che ti dava del voi? Ma è no, normale, stai calmo. Come fa a dirti di stare calmo? Scusa. Mais pardieu, je suis un client, moi. Ne vous inquiétez pas, hein? Sono un cliente, pardieu. Questo è un bistrot. Tu sei un cameriere, non sei una guardia carceraria. La vie en prison, elle a du bien, elle a du bon. Il faut chier devant tous, mais tu as du temps pour flâner. Ah, la vie en prison, la vie en prison. À Lausanne, comme à Dijon, les droits humains fondamentaux sont respectés en prison, sauf une exception. Et l'exception est la règle. Si ton campin est un nègre, ça va sans dire. La vie en prison, la vie en prison, la vie en prison, la vie en prison, la vie en prison. Et l'exception est la règle. Si ton campeur est un nègre, ça va sans dire. La vie en prison. La fabbrica di polli. Wow, ma cosa fai lì in un angolo? Ma io ho fame, guai. Ho capito, ma tu hai un problema, Dici che hai fame, non mangi? Fama, guai. Però scusa, se vivo da mesi e mesi senza aver mai mangiato, sempre a lamentarti che hai fame, ma tu sei una specie di miracolato della natura. Se non vuoi perdere l'opportunità di diventare un idolo adorato delle masse di polli di tutta la fabbrica, devi continuare il digiuno, Sì, ma ho fama, guai. Ma che fama, guai? Tu stai correndo dritto verso la santità. Il paradiso non può più attendere. Anche perché Warren Beatty ormai è all'ospizio. Niente, Warren Beatty, la lascia perdere. Buonasera, sono il confessionale elettrico della cappella di San Gallo. Sfiera. qui sento l'odore di santità. Chi sei, fedele? Ho fame, Wai. Hai fame? Sì, Date da mangiare agli affamati, disse il Nazareno. Ma io ho fame, Wai. Da quanto tempo non mangi, figliolo? Ma io ho fame, Wai. Mai? Spera! Io ho fame, Wai. E perché sei corso qui da un modesto confessionale elettrico per lamentarti del tuo digiuno? Fama, Wai. Figliolo, in te vedo chiari i segni della santità. Spera! Come ti chiami? Joao. Per te prevedo un futuro da morto come San Joao dalla fabbrica. Fama, Wai. Bene, figliolo, adesso però puoi anche andartene, la confessione è finita, spera! Sì, ma io ho fame, Wai! Ho capito, ma io non sono un distributore automatico di cibo e nemmeno un distributore automatico di bevande. Io sono un distributore elettrico di sacramenti. Spera! Quindi smamma, via, smamma, su, via, spera! La fabbrica di polli. Capito, anche se è un sogno, io sui parigini non cambio idea. Beh, hai ragione, anche tu. E poi piove, cioè proprio qui sulle scale del Sacré-Cœur, mentre stiamo salendo, vabbè, piove. Per quello non ci sono mica problemi, nei sogni si può anche passare dalla pioggia al sole cocente in un attimo, così. Ma no, ma il sole cocente, no, cappa, è qui proprio sulle scale del Sacré-Cœur mentre stiamo salendo, dai. Non va bene nemmeno il sole della Grecia. No, dai, no, questo è il sole della Grecia, l'ho fatto arrivare apposta. Se fossimo in un cono d'ombra, d'accordo, ma qui no, dai. Allora, aspetta, nel sogno può diventare una fresca mattinata primaverile, ecco. Ah, sì, questa brezza è quel che ci vuole mentre stai salendo i gradini del Sacré-Cœur. Sì, però peccato che a Parigi ci siano 3 giorni all'anno, così se va bene. Questo o è caldo porco o è freddo porco. Polastri, anche voi a Parigi? Ah, il pollo in sbattimento, in trasferta, no? Ma no. Ma sono le poulet en bâtiment. Cos'è? Le poulet en bâtiment. Cosa sarebbe le poulet en et bâtiment? Bâtiment. Sai che tu dici le poulet en et bâtiment? Sì, et bâtiment. È una parola che ho inventato io questa qui, L'ho modellata su altre parole simili. Vabbè, ma sbattimento in francese si dice claquement, però significa quando sbatte una finestra, una porta. È uno sbattimento diverso, quindi... Infatti io dico et bâtiment. No. Se bouger significa sbattersi, impegnarsi, darsi da fare, quindi se però, bouger... Sì, però non siamo ancora nel campo semantico giusto, perché lo sbattimento del pollo è uno stato psicologico che non ha niente a che fare con il darsi da fare, è sinonimo di sotto stress. Vabbè, allora sarebbe le poulet su stress. Può darsi, sì. O stressé. Ma che stress? Lo sbattimento è peggio dello stress. Sì, lo so, Polo, lo so, non t'arrabbiare, però è così, insomma, più o meno. Sì, ma quando in una lingua il concetto che si vuole esprimere non esiste, bisogna inventarsi una parola, A me il bâtiment mi sembra perfetta. Ma scusa, se un francese non capisce quello che dici, non è perfetto. È una parola che suona francese ma che non vuol dire niente, quindi tanto vale usare la parola italiana. Le poulet en sbattimento. Vabbè, ma allora tanto vale lasciare tutto uguale, no? No, perché poi poulet en bâtiment, dai, sembra una ricetta di Nouvelle Cuisine. Et voilà du poulet en bâtiment avec des pommes de terre grillées. Ah, bien, tu manges. Voilà. Che cosa succederà adesso? Il sogno parigino ha qualche significato o è solo uno dei miliardi di sogni possibili che galleggiano sopra le nostre teste mentre dormiamo? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per ascoltare il prossimo imbarazzante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it. barlumen.com. This program is on the air every night at this same hour. Good night, ladies and gentlemen. Good night.